Uno, due, tre. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Allora, siamo qui pronti alle 7:21 minuti, cari ascoltatori, a leggere i giornali. Vi ricordo che oggi avremo ospite il procuratore capo di Bergamo, Francesco Dettori, alle 8:15, colui che ha detto, tra le altre cose, parlando di questa terribile violenza che c'è stata a Bergamo nei confronti di una donna, di una ragazza, la società è brutta e le ragazze dovrebbero pensare di uscire accompagnate la sera, non uscite da sole. Ci spiegherà il senso del suo intervento il procuratore capo di Bergamo. Poi avremo ospiti per parlare di politica, ma anche di inchieste giudiziarie. L'accusa di alcuni giornali oggi è: ecco, le procure si muovono visto che c'è la campagna elettorale. Matteo Salvini, segretario della Lega Nord in Lombardia, e un ex magistrato, Stefano D'Ambrosio, che oggi si candida con la lista Monti. Giustizia a orologeria in Italia, ne parleremo più avanti. Ora i giornali per l'appunto. È giovedì 17 gennaio, le aperture sono sostanzialmente su redditometro, politica e anche la guerra in Mali, perché l'Italia fornirà appoggio logistico all'intervento francese. Redditometro con il bonus, scontrini, cosa conservare? Questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, tutto il vademecum di quello che bisogna tenere per non incorrere in brutte sorprese. La politica, Bersani-Monti, accordo più vicino, così titola Repubblica e anche la stampa, Bersani-Monti, prove d'intesa. Ieri si sono visti, scrivono i giornali, in tutta riservatezza, infatti è tutto sui giornali. Oppure, sempre per la politica, svolta PD, l'amico è Monti, i nemici Ingroia e Santoro, così apre il Fatto Quotidiano. La situazione del Mali, guerra in Mali, Al-Qaeda attacca, l'apertura del Corriere della Sera, mentre Libero, Monti ci porta in guerra, il manifesto, la guerra in Mali per conto terzi, e si gioca anche col nome del ministro degli esteri. PD e Lega umiliano l'Italia, scusate, PDL e Lega umiliano l'Italia, questo è il titolo dell'Unità. Quote latte, finanziere nel carroccio e a Parma arrestato l'ex sindaco. Dunque le due vicende giudiziarie per l'Unità. Il giornale, ci siamo, le procure salgono in politica. Sul redditometro apre il Messaggero, redditometro meno rigido, mentre Avvenire, la vendetta di Al-Qaeda, miliziani del Mali sequestrano 41 occidentali in Algeria. Vedete questi temi di apertura, ma voglio partire da ciò che fa Libero. Le mani, come al solito, le avrete strette sul volante se state guidando, o se tenete anche una tazzina di caffè, magari appena fatta, bella bollente, state arrivando verso ad appoggiarla al tavolo. Vi lascio quei 2, 3, 2, 1 secondi. Siete arrivati sul tavolo sicuramente anche con la spremuta, e allora potete ora ascoltare ciò che ha detto Franco Fiorito, Francone Fiorito, Batman. Ve lo ricordate? Nei verbali che Libero anticipa, letto in anteprima e pubblica con la firma di Franco Bechis, Fiorito vuota il sacco. Fiorito e l'interrogatorio, i verbali con il giudice. Due pagine intense, iniziano in prima pagina e poi pagina 16 e 17 di Libero. Ecco i trucchi con cui intascavo i soldi pubblici. C'è di tutto. Come sintetizzare queste due pagine? Fiorito, che va dal giudice, dice: ecco qua, mo le spiego come funziona tutto. Le erogazioni vengono stabilite in bilancio, voi non le troverete tutte, perché quando vengono stabilite in bilancio vengono distribuite su varie altre voci, in particolare spese telefoniche e giardinaggio. E che anche il giudice, il PM che lo interroga, dice: giardinaggio è carina, mi spieghi? Sì, esatto, ce ne sono 8 milioni di voci nel giardinaggio. Quindi poi vedrà, che poi sono le stesse da cui potrete risalire, perché sono quelle da cui vengono tratti i soldi per le variazioni di bilancio. E poi Fiorito qui inizia a spiegare, per esempio, i suoi tanti viaggi istituzionali che gli vengono contestati alle Maldive, a Tenerife, in Costa Azzurra. E qui la spiegazione di Franco Fiorito è fantastica. Preciso che tutti i viaggi da me compiuti, ad eccezione ancora una volta di quello fatto alle Maldive, almeno quello ad eccezione di quello, avevano anche una finalità istituzionale, in quanto avrei dovuto incontrare persone e studiare meccanismi amministrativi ed elettorali degli altri paesi. Cioè Franco Fiorito dice che andava a Tenerife, in Costa Azzurra, non alle Maldive per carità, per studiare i sistemi, anche per studiare i sistemi elettorali di quei paesi. Ecco, almeno sulle Maldive, il sistema elettorale delle Maldive effettivamente non ha molto fatto breccia nelle scuole di diritto costituzionale italiane, quindi è un po' difficile giustificare così una presenza alle Maldive, ma a Tenerife, in Costa Azzurra, invece sì. Poi racconta di altri, c'è un consigliere del Partito Comunista che si fece un'associazione Italia-Amazzonia che aveva sede a casa sua e numero di conto pure, così racconta Franco Fiorito. A un certo punto, di fronte alle insistenti domande del pubblico ministero, e siamo a pagina 17 di Libero, senta, ma lei allora ha fatto questi viaggi? Al che Fiorito si spazientisce e dice: ma se mi spiega che vuole sapere, glielo dico. Io sto dicendo, ma lei mi sembra, dice Fiorito al giudice, il mio professore di greco che mi faceva la domanda: Fiorito, il verbo è transitivo o intransitivo? Io non stavo manco a guardargli, dicevo: è transitivo. E il pubblico ministero: Fiorito, stiamo facendo un interrogatorio, non è che stiamo facendo una chiacchierata. Al che Fiorito risponde: eh sì, però io è pure un mese che sto qui dentro in carcere. E insomma anche stralci del suo carattere, che abbiamo visto anche durante varie comparsate in TV, Fiorito vuota il sacco, ci sono tutte le ammissioni o non ammissioni o le giustificazioni o le difese che Libero pubblica nei verbali dell'interrogatorio visti in anteprima a Erbatman, appunto. Siete contenti della indigestione televisiva a cui state assistendo, con presenze un po' ovunque dei vari candidati? L'AGCOM, cioè l'autorità che è garante della par condicio, anche del garante delle comunicazioni, non tanto. Elena Polidori racconta sul Giorno, come dedica una pagina, come siano distribuite le presenze dei vari candidati e delle varie coalizioni. Elezioni, un'indigestione televisiva, così i politici occupano lo schermo. Stravince su Mediaset il PDL con una presenza del 45%, davanti al PD 16%, Monti al 5,52%, il Movimento 5 Stelle al 4%. Ma anche il Rai, il PDL vince col 24,86% di visibilità, davanti al PD 19,63%, Monti al 6,42%, anche sulla 7 il più esposto è il PDL 18,25%, davanti al PD 14%, Monti al 15%, il Movimento 5 Stelle al 12%, e anche su Sky il PDL la fa da padrone, 23,9% davanti al 18,62% del PD, il 13% di Monti e il 5% del Movimento 5 Stelle. Questo, le presenze in video dei telegiornali, ma anche dei programmi di approfondimento, il PDL in genere è in vantaggio su tutte le reti, no? Solo Sky dà più visibilità al PD col 31%, davanti al PDL al 28%. Comunque un po' sbilanciato, dice la GCOM. Ovviamente la presenza di Silvio Berlusconi in tutte le varie trasmissioni ha sbilanciato un po' sulla presenza a favore del Popolo della Libertà, mentre la presenza della coalizione di Monti è praticamente legata solo alle apparizioni del Premier in varie trasmissioni. In ogni caso, il PDL stravince su Mediaset, il PD su Sky, Monti piace alla 7. Comunque, se volete, sul Giorno tutte le percentuali di come la GCOM ha rilevato le presenze dei nostri politici. Va bene, a proposito di politica, anche oggi abbastanza sciagura, programmi zero da parte delle coalizioni, ma interviste tutte di taglio, c'è anche inchieste giudiziarie, ma soprattutto è imperdibile interviste a Giorgia Meloni, ex Tata dei Fiorellos, oppure altre notizie di questo tipo. Ci si dà dei matti, si risponde ai matti, pifferi e tassa misto piffero. Questo qui, tra poco, dopo la pubblicità del meteo. Allora, 7:35 minuti, se sperate di trovare sui giornali delle proposizioni su quello che vogliono fare i partiti, le coalizioni per tasse, welfare, lavoro, politica estera, temi etici, troverete come al solito zero. Qualche dichiarazione c'è stata, ma insomma la notizia più interessante che trovate sui giornali è, secondo Repubblica e La Stampa, l'incontro che doveva essere fatto in massima riservatezza. C'è stato in massima riservatezza, nel senso che i contenuti non si sono ben conosciuti, ma in realtà l'incontro è spiattellato sui giornali tra Monti e Bersani, che avrebbero firmato, sarebbero vicini a un accordo di non belligeranza per sconfiggere il Cavaliere. Questo almeno è il titolo di pagina 11 di Repubblica, il retroscena di Goffredo De Marchis. Quel patto di non belligeranza per sconfiggere il Cavaliere, l'obiettivo comune, la futura intesa tra progressisti e moderati. Il contatto è stato stabilito, scrive De Marchis, atteso da giorni, è diventato realtà. Bersani e Monti si sono visti ieri mattina alle 7.30. Il premier avrebbe voluto fare l'incontro in un convento romano. Ci sono anche dei dettagli interessanti. Bersani, invece, ricordando le polemiche scatenate proprio dal PD in occasione di un vertice centrista, ha chiesto un'altra sede. Adesso i due provano a indirizzare la loro campagna elettorale verso un obiettivo comune, l'accordo del dopo voto tra progressisti e moderati. Infatti nel colloquio si è partiti dalla figura del Cavaliere. Il premier ha affondato il colpo in maniera durissima, dandogli del pifferaio nelle ultime 48 ore e dicendo di un'Italia non governata da anni, ha scatenato perfino l'Europa con il ritorno contro il ritorno di Berlusconi. Ecco il punto. Monti ha constatato una certa freddezza del PD nella fase del massimo attacco. Mi hanno lasciato solo nella mia battaglia, si sarebbe lamentato Monti con i suoi collaboratori. Comunque c'è stato quindi il chiarimento su questo. La richiesta del PD, sempre un retroscena di Repubblica, è la richiesta di attenuare i toni del centristi nei confronti della sinistra dai sindacati a SEL. Ma avrebbe detto Monti mi deve aiutare, avrebbe detto Bersani, Monti mi deve aiutare a gestire il rapporto con Vendola. Insomma, anche per Repubblica e per La Stampa, Fabio Martini, pagina 11, colloquio segreto con Monti per una sfida senza colpi bassi. Clima disteso tra i due leader, racconta La Stampa nell'incontro tra Bersani e Monti. Accordo su un patto informale, vogliono una campagna elettorale franca, ma niente polemiche. E dunque, secondo la notizia forse più interessante che trovate sui giornali di politica è questa: un tentativo di primo approccio tra Monti e Bersani per cercare di coalizzarsi in qualche modo, di vedere un futuro, un domani unito, e di vedere come competitor, come avversario principale da parte di entrambi Silvio Berlusconi. Per il resto, vabbè, siamo alle dichiarazioni. Forse la più interessante è Monti, che ha detto sui temi etici: la famiglia è quella formata da uomo e donna. Ieri, intervistato da Ilaria D'Amico nel programma Lo Spoglio, il giorno prima c'era stato Silvio Berlusconi, e ora Monti: la famiglia è quella tra uomo e donna. L'abbiamo fatto sentire anche nel GR delle 6.30. Certo, qualcuno ha fatto notare che c'è un po' in incompatibilità col fatto di avere candidato il candidato gay Alessio De Giorgi, che infatti si è ritirato, però non per la vicenda delle ultime dichiarazioni di Monti, ma si è ritirato perché ci sono state le polemiche. È colui del quale sono state mostrate le foto sul Libero di alcune feste molto trasgressive. Poi alla Zanzara è stato rivelato che lui è amministratore di alcuni siti anche, insomma, di contenuto pornografico abbastanza spinto, e quindi Alessio De Giorgi, che ora non rilascia interviste ma dice sui giornali con comunicati stampa: mi hanno triturato per colpire il premier, mi hanno messo nel tritacarne. Eccolo qui per esempio Marco Gasperetti sul Corriere della Sera, tenta di intervistarlo, ma solo qualche dichiarazione a pagina 10, solo l'SMS, sono in silenzio stampa fino a domani, e poi appunto su internet la spiegazione: mi hanno triturato, mi hanno messo nel tritacarne, volevano colpire il premier, contro di me una campagna denigratoria. Insomma, Alessio De Giorgi, 44 anni, direttore di gay.it, che era in lista al Senato per la lista di Mario Monti, anche se le liste non sono state ancora compilate ma era abbastanza annunciato, ha ritirato la candidatura, non correrà più per il Senato. La replica di Monti poi a Berlusconi che gli ha dato del matto in pratica, cioè c'è in giro un matto che si crede Monti, questo ha detto, ci prende in giro sulle tasse, ha detto una cosa e poi un'altra cosa, o è un matto o c'è un giro un matto che si crede Monti. al quale Monti ha replicato. Vabbè, insomma, siamo alle schermaglie della politica solite. La cosa forse più interessante, che è la questione della composizione delle liste, il Partito Democratico le liste le ha già presentate, anche se ora oggi dovrebbe esserci le decisioni del Comitato di Garanzia anche sui cosiddetti impresentabili, questi secondo alcuna stampa, alcuni deputati che e senatori futuri che hanno qualche problema con la giustizia. Oggi il Partito Democratico deciderà se depennare qualcuno. Gli altri partiti invece hanno tempo fino a lunedì, credo sia lunedì la presentazione delle liste. Allora è interessante leggere sul Foglio il retroscena a firma Salvatore Merlo, secondo il quale Berlusconi è pronto a sorprese shock nelle sue liste elettorali. Tutto, scrive il Foglio, si deciderà nel sabato e domenica ad Arcore, e da martedì notte, scrive Merlo, alla sede del Popolo della Libertà in via dell'Umiltà si discute di deroghe, di quanti, cioè, e di chi potranno essere candidati malgrado il limite delle tre legislature. Comprensibilmente si fa spintoni. Il centralino del Cavaliere smista decine di telefonate verso Arcore, Palazzo Grazioli. Tra Natale, Capodanno e l'Epifania alcuni parlamentari sono riusciti a fargli gli auguri fino a 7 volte, cioè gente che gli fa gli auguri 7 volte nella speranza di un posticino. Siamo veramente a questo livello. Gente che ti dorme la notte sullo zerbino pur di farsi vedere come primo, il primo della classe per avere un posto nelle liste. Questo è il mercato delle liste che negli ultimi giorni si anima tantissimo. E allora, scrive Merlo, il tormento personale di Verdini e Alfano è che i pellegrini, cioè coloro che vanno proprio in pellegrinaggio, sono tanto dolci col Cavaliere quanto minacciosi nei loro confronti. E dunque, dopo una telefonata di Berlusconi, i due si scambiano battute che suonano così. Ha chiamato il dottore, c'è un altro nome da aggiungere, Simonetta Matone, magistrato, capolista in Lazio. Oddio, e adesso chi glielo dice a quelli? Quelli sono ovviamente, per Merlo, quelli che devono sloggiare, devono fare il posto alle persone che Berlusconi dice invece mettete in lista questo e quindi bisogna togliere una persona. Il guaio è che se il Cavaliere dice sempre di sì, a qualcuno tocca invece pronunciare la parola no. A chi? A Verdini e ad Alfano. E ovviamente gli addetti al no hanno la certezza di attirarsi imprecazioni, durevoli inimicizie. Per esempio l'avvocato Taormina, a cui una candidatura fu promessa dal Cavaliere, mai fu concessa, da anni si esprime in termini non proprio eleganti nei confronti di Fabrizio Cecchitto e Verdini. Insomma, scrive Salvatore Merlo sul Foglio in prima pagina, è il mercato delle liste. Entro venerdì, sabato, domenica sarà un weekend bollente, rovente, con gente che cercherà di rintracciare Berlusconi per farsi dare un sì, una promessa di entrare in lista, ma poi non è che si può dire sì a tutti, le liste hanno anche una loro capienza. Noi parleremo alle 8:30 delle vicende giudiziarie. Sono due quelle che sono finite sui giornali: il caso Quote Latte con le perquisizioni ieri delle sedi della Lega a Milano e Torino, per la verità l'altro ieri, ma la notizia è stata diffusa ieri. Nessun indagato del Carroccio, questo va subito detto, come scrive Giuseppe Guastella, pagina 14 del Corriere della Sera. C'è chi lo definisce fregolismo giudiziario, è il sistema delle quote latte, quello annoso per il quale incombono, ci sono delle multe salatissime da parte dell'Europa in confronto di alcuni produttori di latte in Italia. Fregolismo giudiziario perché si funziona così, e questo è il succo dell'inchiesta: si mette su una cooperativa di allevatori che raccoglie il latte, le multe da versare allo Stato quando vengono sforate le quote, le si fa fallire senza versare nulla all'erario, ci si trasferisce in un'altra regione, si ricomincia da capo anche grazie a qualche funzionario pubblico oliato a suon di mazzette. Questo Giuseppe Guastella racconta sarebbe il succo dell'inchiesta che riguarda appunto le quote latte. Ci sono state queste perquisizioni, anche il giallo della immunità parlamentare, che Maroni dice nessuno di noi ha opposto immunità parlamentare a una bufala sesquipedale. In realtà c'è da dire che la stampa racconta chi è stato, cioè il segretario amministrativo della Lega Stefano Allasia, 38 anni, segretario del Carroccio in Piemonte, onorevole, è lui che ha chiesto l'immunità alla stampa, rivela a Niccolò Zancan è stato un gesto istintivo. Quando ho visto la Guardia di Finanza sono stato io, è vero, ad opporre l'immunità parlamentare per bloccare la perquisizione, da considerarsi una prima reazione istintiva. Quando ho visto 8 agenti della Guardia di Finanza entrare nei nostri uffici ho pensato, ma cavolo, sono già stati qui 2 anni fa, da allora i nostri bilanci sono stati tutti certificati, allora mi è venuto così istintivo, siccome io sono un parlamentare, Stefano Allasi, a dire invoco l'immunità parlamentare. L'altra inchiesta riguarda Parma, arrestato l'ex sindaco Vignali. L'accusa: usava anche cooperative, soldi pubblici come bancomat. E qui ritorna la questione anche delle escort. Perché? Dopo il traffico. Allora, Parma, l'accusa da parte della procura che ha arrestato l'ex sindaco Pietro Vignali, 44 anni, che ha guidato il comune di Parma fino al 2011 per il Popolo della Libertà, di una cupola, cioè veniva addirittura intercettato e nelle intercettazioni viene definito il Papa, lo ha deciso il Papa, cioè secondo l'accusa era un sistema di potere in cui si drenavano anche soldi pubblici, tutto a favore del consenso. E tra l'altro anche l'accusa è quella di avere scatenato Letta, come c'è in una intercettazione, cioè Gianni Letta, cioè il tentativo di cercare di fermare le indagini, queste sono le accuse, coinvolgendo anche i vertici da Letta fino a Berlusconi. E qui ecco perché entrano in campo le escort. Torna per esempio Nadia Macri, ricordate? Una delle escort nell'epoca in cui si parlava di Berlusconi, le escort eccetera. Nadia Macri ancora oggi su Repubblica ribadisce: ho incontrato Berlusconi tramite l'elemora, abbiamo avuto un rapporto sessuale, poi ho incontrato l'ex sindaco di Parma Vignali, diciamo che siamo andati a casa sua, puntini puntini. E vabbè, insomma, le solite cose che tornano. Ma è interessante anche sul Fatto Quotidiano la lettura del fatto che dal comune venivano utilizzati soldi pubblici anche per cose istituzionali, come dare 102.000 euro alla società di Klaus Davi per l'immagine, per curare l'immagine del comune, tanto che infatti c'erano programmi come trasmissioni come quella di Uno Mattina, dove da un sms intercettato si sollecita la disponibilità del sindaco, che infatti poi appare a Uno Mattina. E finita l'intervista a Uno Mattina, il sindaco in un'intercettazione parla con i suoi consulenti e dice: beh, mi sembra che l'operazione di oggi, cioè Uno Mattina, abbia perfettamente risposto. Cioè l'accusa di dire, come dire, fare pressioni per poi avere ospitate e parlare in maniera positiva. In un caso invece pare che Vignali si sia arrabbiato perché un giornalista del Sole 24 Ore, un nostro collega, non so chi sia, facendo gli interviste avrebbe dovuto fargli solo delle domande su un certo argomento e invece gli ha fatto una specie di interrogatorio sul bilancio del comune. Cioè tipo quella cosa libertà di stampa, schiena dritta, che uno invita una persona e questo deve rispondere alle domande senza sapere quali sono. Queste cose in Italia, questi concetti un po' strusi fanno un po' fatica a entrare nella testa dei politici, io infatti quando chiedono ma su che tipo di domande non rispondo neanche, cioè se uno vuole essere ospite viene ospite e risponde a qualsiasi tipo di domanda, quella che mi viene in mente, altrimenti può anche rinunciare. Vabbè, in tutto questo vi accorgerete che molti giornali titolano sul Mali, situazione nel paese africano dove una parte del paese è in mano a estremisti vicino ad Al-Qaeda e dove la Francia da giorni sta facendo dei raid militari. In un colloquio a cui è partecipato anche l'inviato il corrispondente della Stampa Alberto Mattioli, parla il presidente francese François Hollande, che dice: distruggeremo quei terroristi, sono solo dei trafficanti di droga. È un Hollande di ferro, scrive Mattioli. Dice: distruggeremo tutto quello che c'è da distruggere. La nostra azione era necessaria e legittima. E poi aggiunge: la Francia non ha alcun interesse in Mali, non è mossa da calcoli economici, ma è al servizio semplicemente della pace. Qui, permettetemi, sinceramente sembra un po' la battuta dell'anno, ma questa è considerazione mia. Sta di fatto che l'Italia ha detto: appoggeremo logisticamente con strutture L'azione militare. C'è anche un'intervista a Romano Prodi, che sapete ha un incarico per l'ONU in Africa, intervistato da Umberto Di Giovannangeli su l'Unità. Dice: Hollande doveva agire, l'Unione Europea sicuri dell'Africa alla luce di quello che è successo. Io ero proprio nella capitale del Mali, Bamako, quando ero a colloquio col presidente del Mali, Traoré, quando è scattato l'attacco dei ribelli, un attacco imprevisto, dirompente, alla luce del quale non credo vi fossero alternative all'azione militare. Sta di fatto che l'Italia, addirittura titola Libero, Monti ci porta in guerra, ma anche il Manifesto mette in prima pagina questo titolo: la guerra in Mali per conto terzi. Terzi è anche il nome del nostro ministro degli esteri. E dunque la guerra si allarga, e scrive il Manifesto, ci portano in guerra. Che cosa darà l'Italia? Scrive Maurizio Caprara sul Corriere della Sera, pagina 3, istruttori e aerei da trasporto, l'Italia è pronta a dare una mano. Finora c'era stata la consegna del sostanziale silenzio, ma ora l'Italia ha deciso nel decreto di finanziamento sulle missioni militari, attualmente all'esame, sono previsti fondi per 24 istruttori tra Mali e Niger, e per prevenire le obiezioni di quanti potrebbero dire ma l'Italia ripudia la guerra, l'articolo 11 della Costituzione, Terzi, cioè il ministro, ha sottolineato che l'azione francese è sotto l'egida della risoluzione 2085 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Dunque niente truppe sul campo, ma supporto logistico. Va bene così? Con questa domanda vi lascio al giornale radio delle 8. Ci ritroviamo con gli ospiti, vi ricordo il procuratore capo di Bergamo alle 8.15 e poi politica e giustizia con Matteo Salvini della Lega e il magistrato Stefano D'Ambruoso, candidato a lista Monti alle 8.30.